speranze che sperai, sorrisi e pianti miei. Promesse di allegria e sogni in cui volai, ed il primo spietato amor mio siete per me. Perduti e persi mai, mi appassionai di voi. Su di voi giurai e mi ci tormentai.